Se dovevano essere i saloni dell'austerity, data la situazione economico-finanziaria del paese e del resto d'Europa, chi si aspettava risultati modesti sarà rimasto sorpreso. La kermesse milanese del grande design e del grande arredamento italiano chiude i battenti dopo una settimana con numeri estremamente positivi. Più di 330.000 visitatori, oltre 290.000 operatori del settore per una crescita del 3,5% rispetto al 2011. Nonostante il clima iniziale fosse dunque negativo, il salone nella crisi ha trovato una spinta positiva e tanti nuovi spunti. Lo testimonia ad esempio l'incremento di operatori stranieri, 188.000 quest'anno, dato che conferma i buoni risultati del nostro export, ma che non soddisfa pienamente l'organizzazione e i vertici di Federlegno Arredo, che hanno sottolineato anche in chiusura il bisogno di una ripartenza del mercato interno. Ma il salone, anzi i saloni, non sono stati solo numeri e trattative commerciali. Per 6 giorni il centro della vita, anche politica, dell'Italia si è parzialmente spostato nel polo fieristico di Ropero. È la sera per le vie di Milano la travolgente energia del fuori salone con i suoi eventi all'insegna del glamour. Realtà che salutano i propri visitatori e iniziano già a guardare avanti. L'obiettivo è stupire anche nel 2013. Fabio Pisanu, Radio 24, Il Sole 24 Ore.